La nostra strada è abbastanza chiara. Noi pensiamo che chi vuole fare copie illegali di un testo le fa, qualsiasi blocco venga messo, mentre i blocchi, i cosiddetti DRM che vengono applicati all'ebook, si rivelano poi essere soltanto delle scomodità per colui che acquista. Quindi paradossalmente i DRM vanno a danneggiare principalmente chi ha pagato per l'ebook. Quindi la nostra linea, diciamo, la nostra linea è quella di rilasciare ebook senza alcun tipo di DRM e fare in modo che il lettore sia interessato a quello che noi facciamo, offrendo una serie di servizi, come le citavo prima, nel momento in cui un nostro ebook viene upgradato, esce una nuova versione, noi la diamo gratuitamente a chi ha acquistato quella vecchia. Quindi cercare di avere dei servizi di fidelizzazione offrendo qualcosa in più rispetto a quello che può essere l'acquisto invece di un prodotto che inizia e che poi è chiuso. Noi pensiamo che l'ebook da questo punto di vista è qualcosa di molto diverso, perché è un prodotto che invece permette di accedere a un contenuto il quale si può sviluppare nel tempo. L'ebook sempre di più smetterà di essere un qualcosa per diventare un servizio, per diventare un qualcosa che cambia, si modifica nel tempo. Cambia anche il lavoro dello scrittore in questo senso. Sì, cambia il lavoro dello scrittore perché innanzitutto perché si ampliano le possibilità di scrittura. Si chiede sempre a uno scrittore, no, ma stai lavorando al tuo prossimo libro? E in questo caso non si scrive più un libro, quello che viene messo al centro è una storia, una narrazione, un'informazione. Quindi quello che il lettore vuole e vorrà sempre di più non è più il libro, ma è quello che, diciamo, è dentro il libro, quindi è la narrazione o le narrazioni, il contenuto, la storia, l'informazione. E questa evidentemente non è più costretta all'interno di una struttura che è quella del libro, che benché affascinante è sicuramente rigida, ma può avere degli sviluppi sia nella creazione dei testi, sia nell'aggiornamento, sia nella possibilità di scrivere un romanzo il quale ha tante storie che si sviluppano parallelamente l'una all'altra ed il lettore si muove all'interno di queste storie. Sono tutte possibilità retoriche di scrittura, di invenzione che col libro tradizionale non è che non ci fossero, ma sicuramente erano molto più rigide.